Il punto di Stefano Folli. Alla fine, c'è da crederlo, la candidata italiana in Europa, l'unica in campo, cioè Federica Mogherini, passerà. Ma i ritardi e i rinvii la dicono lunga sul peso reale dell'Italia negli organismi dell'Unione e forse dovrebbero insegnare maggiore cautela al nostro Presidente del Consiglio. Certi metodi sbrigativi che funzionano a Roma, e non è detto, hanno scarso successo al di là delle vecchie frontiere. Commentare lo stallo dicendo "potevano avvertirmi con un SMS e mi risparmiavo il viaggio" non è esattamente la frase che ci si aspetta dal Presidente di turno dell'Unione. Insomma, c'è parecchio da imparare quando si è lontani da Roma. Se si è costretti a chiedere rispetto, vuol dire che il problema esiste. Ed è plausibile che qualcuno fra i nostri partner voglia far pagare al premier italiano questo suo tratto vagamente presuntuoso o che appare tale. Al di là del caso Mogherini, che sarà risolto, adesso è in ballo il successo del semestre. Ed è questo il punto su cui Renzi farebbe bene a riflettere.